c'ho la palla prima di lui, me l'ha capito. Silenzio la vecchia! Si abbassa! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dai, salta su, passiamo qualche ora insieme a tu per tu. Dai, ci facciamo un giro, due giù per la città, sulla mia nuova auto blu. Dai, salta su, passiamo qualche ora insieme a tu per tu. Dai, ci facciamo un giro, due giù per... Mentre Renzi parla, caro Parenzo, che cosa è successo? Cosa è accaduto? Che ha annunciato che ogni ministero avrà al massimo 5 auto blu e i sottosegretari andranno a piedi. Allora io dico una cosa, se non voglio fare per forza il catastrofista, quello che va contro Renzi a tutti i costi, eccetera, però se uno... Mi pare buono, no? No, questo mi pare ottimo, però se uno, se uno ha eliminato le auto blu per i sottosegretari, 5 auto a ministero, a che servono? Cioè, a cosa servono 5 auto a ministero? Che mi sembrano tante 5 auto per ogni ministero. Tu dici che ogni tanto c'è bisogno delle auto blu per portare i funzionari in giro. Beh, quello è certo, poi bisogna anche un po' smetterla con questa canea grillina, per cui tutto fa schifo. Un alto burocrate dello Stato deve avere l'auto blu, amico mio. Ma che sei impazzito? Un alto burocrate dello Stato deve avere l'auto blu, ma tipo sei pazzo? Stai scherzando tu? Ma quale auto blu? Adesso i sottosegretari ovviamente no, ma un viceministro degli interni, ad esempio. Ma che c'è? Ma che deve andare con l'autobus? Ma sei scemo? Vabbè, tu, sentiamo Renzi intanto. Sentiamo Renzi. No, giù. Io non vorrei. Io non vorrei nessuna auto blu, tranne per il presidente del Consiglio e forse per qualche ministro al limite. Altrimenti taxi che si risparmi sull'auto blu, eh? Ma tu hai presente, ad esempio, straordinaria, il presidente degli Stati Uniti, bellissimo. Ma che c'entra? Ma io... Che ha quel corteo di 25. Ma quella è la sicurezza, è diversa, ma dai. Ma è il potere, proprio. Vabbè, l'America. Fammi sentire questa cosa di Renzi sull'auto blu, dai. Stupendo. Ogni ministero potrà avere al massimo 5 auto blu. Cosa vuol dire? La dico male, i sottosegretari vanno a piedi. Non c'è bisogno per i sottosegretari di auto blu. Molti direttori generali vanno a piedi, vanno a prendere il taxi, vanno in autobus, vanno in metropolitana, vengono con la propria macchina, usano il motorino. La riduzione di auto blu più significativa della storia. Che gli 80 euro ci saranno fino al mese di maggio, eccetera eccetera, a un certo punto ha detto ho lasciato la cartellina, ma questo l'avete ascoltato prima, i dirigenti al massimo potranno prendere, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, 240.000 euro, altrimenti se non vogliono vado a lavorare nel privato. E poi vengono ridotti anche gli stipendi degli altissimi magistrati, Io credo che in un momento nel quale gli stipendi dei dirigenti sono cresciuti e gli stipendi dei lavoratori no, dare un tetto massimo, che è il tetto di 20.000 euro al mese, non è un tetto così drammatico. E non perché è molto più del doppio di quello che prende il Presidente del Consiglio, ma perché è un principio di serietà. Forza spese, voce di rappresentanza, finalmente la ritrovo. Stesso incrocio, stessa strada, inconfondibile grandama, da Castillo e Perizoma. E per togliere un po' di acqua, no, dalla campagna di Grillo, cita uno delle persone che sono diventate in questi mesi un punto di riferimento per i grillini, cioè dire Olivetti. Sentiamo. La norma che richiama il grande principio sacrosanto di Adriano Olivetti. In un'azienda nessuno, diceva il grande Olivetti, può guadagnare 10 volte più di quello che guadagna l'ultimo lavoratore. In realtà non è così, e qui siamo anche più alti. Noi mettiamo un tetto di 240.000 euro insormontabile per i dirigenti della pubblica amministrazione. Che vettura eccezionale! Poi vedremo, perché gli annunci sono sempre belli, i fatti sono un'altra cosa. Bisogna vedere quanto tutta questa enfasi di Renzi, quanto poi corrisponde alla realtà, cioè quanti sono i dirigenti della pubblica amministrazione effettivamente sopra i 240.000, i dirigenti. Bisogna vedere quanti sono, quanto si risparmia, se già erano delle cose introdotte da quelli che c'erano prima, in particolare Letta, eccetera eccetera. Solo in un comune medio grande come quello di Firenze, appunto, i dirigenti guadagnavano molto il triplo del sindaco, anche molto di più. Una luce ci disturba, è una cosa alquanto strana, sarà mica. Mitico scontro Casarini-Meloni sulle manifestazioni. Ah, dove? Meraviglioso scontro, non so dov'era, credo che fosse Santoro? Matrix. Casarini, te lo ricordi, no? Luca Casarini contro la Meloni. L'altro periodo in cui è stata tolta la democrazia si chiamava dittatura. Fascista in Italia, nazista in Europa, in Germania, eccetera. No, voglio dire, è tutto un paradosso. E quindi è interessante per me seguire questa discussione in cui la Meloni è la difende la democrazia. Proprio le prerogative democratiche, con la cultura che si porta dietro. Casarini, bevati meno, faccia la cortesia. Perché sta dicendo cose completamente prive di senso. Lei pensi al Photoshop dei suoi cartelloni di cose e chiudiamola serie. Lì. Qua stiamo cercando di parlare di cose serie. Guardi, la seconda cosa, la politica Berlusconi diventa garantista sulla democrazia e sulla giustizia. Beva di meno, Casarini, beva di meno. Cioè, la discussione è cosa fare con i manifestanti violenti nelle grandi città. Ancora Casarini e Meloni. Poi vi dico una cosa che vi sorprenderà: questa sera sono d'accordo con il ministro degli interni Alfano sulla questione dei manifestanti, cosa incredibile, non sono quasi mai d'accordo con Alfano, però stavolta devo dire che poi guardando quello che dice e sentendo quello che dice, stasera ha pienamente ragione. Va bene Casarini, un momento, voglio sentire Totti. Vorrei che discutessimo dalla politica, finti rivoluzionari siete, Casarini. Allora facciamo un attimo, servizio di Nicoletti e poi Totti. Servizio di Nicoletti. Ma sei vergognosi. E c'è un rumore che non mi dà pace, sembra il motore di un aeroplano che si avvicina. Allora, secondo Vauro, lui può fare le vignette sull'olocausto, Grillo invece non può parlare, non può utilizzare l'olocausto come metafora per dire la sua sull'Italia, su Gelli, sulla P2, sull'euro, eccetera eccetera. Strana teoria quella del signor Vauro, ma la differenza forse è che Grillo è un protagonista della politica e Vauro no, forse, credo che sia questa la giustificazione. Una vignetta forse per questo. Però io ne ho fatte più d'una di vignette che richiamavano alla Shoah e richiamavano all'olocausto. La differenza fra me e Beppe Grillo è che io sono un vignettista. Io non sono una figura ambigua, non sono in quella terra di nessuno fra il capopopolo o il leader politico e il vignettista. Sono soltanto un vignettista. Quindi quando io uso quel linguaggio, lo uso nel contesto che gli è consono, che è quello della satira. Sì, in parte è vero, in parte no. Sì, però Mauro, diciamo la verità, insomma, si fa politica in ogni caso. Non si è ufficialmente candidato con nessuno, a parte forse si potrebbe trovare qualcosa nel passato di Mauro. Però insomma, dai, su. No, lui fa un discorso di contesto, no? Sì, d'accordo, però insomma, poi alla fine è quello che pensa. Tu sai, Vauro sulla Shoah, sai che non mi sono mai state particolarmente. Sì, quello che pensa Vauro della Shoah e degli ebrei e della Palestina l'ha espresso più volte. No, ma sono concetti diversi, ebrei è una cosa, Palestina è un'altra. Ma a parte questo, io ho criticato Vauro quando ha fatto le sue vignette. Ma non è vero che facendo le vignette lui sugli ebrei, sull'olocausto fa politica anche lui. Fa politica è un capo partito, facesse i manifesti con quella roba aberrante che ha scritto, beh, lì sarebbe da denuncia globale, proprio da immediata. Ma tu lo sai che Marione è candidato al centro, sì? Mario Borghese, sì, certo. È candidato al centro. Certo, lo so. Oggi in una mitologica intervista a Libero dice che vuole trasformare lo slogan Roma ladrona in Bruxelles ladrona, Roma non ti perdona. Cioè si deve un po' ricalibrare, si deve un po' riposizionare Borghese, che deve fare campagna elettorale da Roma. Beh, ma lo vogliamo ricordare? Lo vogliamo ricordare? Cosa disse? Ma anche recentemente su Roma? Nostra gente, però gente umile, che lavora, che produce, che si ostina a mantenere Roma ladrona che non fa un cazzo, ma la cui pazienza ha un limite. Ma no, schifosissima nel senso di un po' sporchettina, ecco, insomma, ecco, è una città multiraziale, una cosa che fa venire il vomito, ecco, senza diciamo aderire a tesi razziste, però diciamo tutti questi immigrati, diciamo, pulizia non ne portano, ecco. Non vorrei essere accusato di xenofobia. Non vorrei essere accusato di xenofobia, non vorrei. Allora, dopo la clamorosa intervista ieri sera di Claudio Scajola qui alla Zanzara, Totti insiste, ma ne parleremo dopo. Sembra il motore di uno sgarbone? Lo mettiamo uno sgarbone, che dici? Uno sgarbone, non bisogna pagare le tasse, così, una cosa leggera, una cosa leggerina. E sul mio... Lo dico con tutta la volontà di insurrezione, non bisogna pagare le tasse, perché io non voglio pagare le tasse per dare i soldi a Fuxas, per dare i soldi alla... 360 milioni per la Fiera di Roma, sono soldi anche miei. Allora, perché non le pagare solo per vedere la rapace? Io vedo solo orrori. Beh, scusa, se non ti piacciono alcune cose non devi pagare le tasse, Vittorione. Dai, Vittorio, dai. Poi in realtà Sgarbi dice una cosa sensata. Renzi è molto più bravo di destra di Berlusconi. Renzi, che è molto più intelligente di Berlusconi, è molto più bravo di Berlusconi, è molto più di destra di Berlusconi, è molto più furbo di Berlusconi, un po' meno ricco, ma non compra i suoi, però li chiama con l'amicizia e si circonda di figure così modeste che potrebbero fargli da camerieri. Cioè, non c'è un ministro che abbia un rango superiore a un cameriere. Cioè, te li immagini uno che si alza di questo e dice: non sono d'accordo. C'è un candidato nel Partito Democratico al centro che mi affascina particolarmente, perché l'ho visto presente in un sacco di manifesti elettorali, caro David, in moltissimi manifesti elettorali. Anzi no, ma scusa, Alfano non abbiamo mandato. C'è Alfanone. Cioè, Alfanone l'ho chiamato e non l'abbiamo mandato. Senti cosa dice sui manifestanti di Roma, sugli scontri, eccetera. Per noi la libertà di manifestare è sacra, ma tirare razzi non è manifestare. Sull'identificativo alle forze dell'ordine io sono contrario, anzi, se questi sono i manifestanti, io l'identificativo lo metterei a loro, non alla polizia. Che cerca un posto dove atterrare e sul mio orecchio. Questi sono i manifestanti. Queste non sono foto segrete della polizia, le ho fatte prendere dall'ANSA proprio perché questi sono i manifestanti. I bravi ragazzi che si battono contro l'austerity, guardate la fionda con pietra dentro. Che cosa si vuole dai nostri poliziotti? Che dicano: prego, accomodatevi, sfasciate i palazzi, rompete le vetrine. Beh, devo dire che questa volta ci vuole l'applauso, mettiamo l'applauso anche, applauso. Cosa si vuole dalla polizia? Che accomodatevi, Parenzo, sfasciate le vetrine. Interni, come al solito, ho sbagliato il bersaglio. Sì, beh, certo, ha sbagliato. Sì, stavolta ha pienamente ragione, al 200%. Allora, fermo lì. Avremo modo di parlare. Mi affascina un personaggio di cui ho visto i manifesti per Forza Italia, per Di Pietro e adesso per il Partito Democratico e prima ancora per i socialisti, eccetera, eccetera. Il signor Claudio Bucci, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Lei fa il produttore cinematografico, ma che film produce, signor Bucci? Guardi, adesso questo sarà il prossimo scherzo, perché c'è proprio questi giorni un film che è un cartone animato, Berry Gloria Disco Worm, col vermetto interpretato poi da Arisa, che canta, e quindi... Ma dunque lei c'ha un sacco di soldi? Immagino già che la prossima faranno col vermetto che canta. Insomma. Cioè, lei è molto ricco allora? No, assolutamente, perché qui è proprio di... Qual è il suo reddito? Il suo reddito annuale qual è, signor Bucci? 140.000 euro. 140, è morto di fame lei? Cioè, come no, si dice? Mezzo no, morto no, di fame, no. 140.000 euro, siamo alla povertà più assoluta quasi. Ma come? Vivo benissimo. Un attimo solo che c'è il traffico, torno da lei. Lei mi deve spiegare perché in 14 anni ha cambiato, leggo, ma è vero perché poi è come dire certificato dai manifesti elettorali, 4 partiti, forse anche 5. Sono tempi duri, eh. Ancora a casa. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno... sembra poesia, la cruda verità. Ancora un attacco di Toti a Scajola. Su Scajola c'è un processo in corso. Sentite, Toti. Sono pazze del mio sorriso. È giusto che ci siano delle liste che siano competitive, ma anche prive di ogni ombra. Al caso Scajola c'è ancora un processo di appello in corso, è una vicenda che ha colpito molto l'opinione pubblica. Io mi auguro di cuore che finisca con una soluzione totale. In ogni caso penso che sia stata una scelta giusta. Ma la cosa incredibile di oggi, da quello che è uscito, che ho letto, Parenzo, è che Cosentino aveva le chiavi della reggia di Caserta per andare a fare running, cioè per andare a correre. Il prefetto gli aveva dato le chiavi della reggia di Caserta, cioè questo vi fa capire il potere enorme che aveva Cosentino, cioè aveva le chiavi della reggia di Caserta, della reggia. Ma il problema non è Cosentino, è una cosa pazzesca. No, certo, chi gliela dà delle chiavi? Il problema è il prefetto. E chi gliela dà? Non c'è dubbio. E io mi auguro che il signor Alfano, che è il capo dei prefetti e quindi anche di questo prefetto, si informi su questo effetto e lo rimuova. Ma immediatamente, oppure vedrai che lo candiderà magari. Magari lo candida, dice. Beh, certo che Alfano ha candidato pure il signor, come si chiama lì, che ha una condanna, è indagato in altre cose, per carità, signor Scopelliti, eh. Vabbè. Chi abbiamo? Allora Bucci, lei è partito con Forza Italia, giusto? Sì. Poi? Poi io sono stato eletto consigliere regionale con 10.000 voti nel 2000 con Forza Italia, poi sono passato con l'Italia dei Valori e poi successivamente mi ritrovo nel Partito Socialista Italiano, però con la questione del patto federativo che c'è. Ce l'ha fatto Forza Italia, Italia dei Valori, socialisti e poi Partito Democratico, giusto? No, adesso no, c'è un patto federativo tra Partito Democratico, se ne parla poco perché per fortuna se ne parla poco, però sto dicendo perché, come dire, quattro partiti in 14 anni, ma come mai? Poi sempre col manifesto con la stessa camicia. Intanto insomma lei saprà sicuramente che è un giornalista informato, bravo. E quindi oltre al manifesto avrà visto anche le mie leggi, insomma io ho fatto la prima legge in Italia contro il mobbing, la prima legge per gli over 40, la prima legge per sul mobbing del lavoro. Sì, perché sì. Cioè, insomma, la legge sul mobbing l'ha inventata lei. La legge per la prevenzione contrasto al fenomeno del mobbing. Questo però, insomma, da giornalista informato, insomma, dovrebbe. Guardi, il mobbing non l'ha inventato lei, le leggi sul mobbing. No. Però può vederlo questo, perché insomma nel 2001 quando non si parlava di mobbing. Sì, ma non è che lei si è inventato. Mobbing, è stata la mia. D'accordo, però Bucci, voglio dire una cosa. Lei come mai riesce sempre a trovare un posto? Cioè sempre una posizione. Cioè, Forza Italia, Di Pietro, socialisti, Partito Democratico, alla fine gliela fa sempre. Però guardi, il Partito Socialista e il Partito Democratico è un'unica cosa, nel senso che c'è un patto federativo, io sono il candidato socialista del Socialista Democratico, del Partito Democratico. In quel senso là. Ma no, i manifesti uguali lei perché li fa? Guardi, però questo così almeno spadiamo, perché poi piace spadiamo anche tutto, la Italia, anzi voi la fate. Spadiamo questa roba, veramente con piacere. Va bene. Io sui manifesti non penso che siano un mezzo di comunicazione, io penso che il mezzo di comunicazione sia quello che uno fa. No, li ho fatti pochissimi, come potrà vedere. Perché utilizza sempre la stessa foto? Guardi, io quella foto lì l'avevo utilizzata, quella dell'Italia dei Valori, subito dopo quella di Forza Italia, perché non c'avevo voglia di andare a spendere soldi, andare a fare il fotografo e tutto il resto. Però capisco, cioè, che per risparmiare, dice lei. Grande ironia, per cui lo prendo anch'io con ironia, poi me ne sono accorto subito dopo quando hanno incominciato a uscire sul web tutte queste cose. Per cui la camicia è sempre la stessa del 2005? Sì, ma siccome credo poco appunto che la gente, io nell'Italia dei Valori poi ho preso altri 8.000 voti. No, però scusi Bucci, adesso non stiamo, ma ho capito, ma non sto adesso mettendo, lei non mi deve ripetere quanti voti ha preso, perché qui non è in discussione, io sto dicendo una cosa, quella foto del 2005 è la stessa oppure lei ha rifatto una foto con la stessa camicia? No, è la stessa foto. La stessa foto un po' diversa, un po' messa... Guardi, no, è uguale, identica, uguale, identica. Avevo chiesto soltanto di sbrigarci, perché comunque siccome non è una cosa... Ma lei sarà cambiato dal 2005, ognuno in 10 anni cambia, pure è rimasto sempre uguale. No, figuravo, cioè, ero assolutamente cambiato, ma non l'avevo fatto né per un motivo di piacere di più né di piacere di meno. Tanto è vero che adesso, anzi, visto che ci sto, vi chiedo pure il consiglio, ma questa di quest'anno come la devo fare? No, ma lei deve fare, ma deve fare sempre la stessa, ma assolutamente deve fare sempre la stessa. Sempre la stessa. Ma sì, ma questo tormentone, ma d'altra parte Bucci, se non si parla di questi suoi manifesti, adesso, con tutto il rispetto, è difficile, ma, no? Ma se sarebbe mai parlato delle leggi che ho fatto e tutto il resto, ma figuriamoci, Allora, Parenzo, che c'è? Dai, che dobbiamo chiudere, dimmi. No, voglio dire, lui è un campione, per me è un campione. Perché? È Girardengo, è Bartali, è Coppi, è il Coppi della politica. Perché? Perché è più veloce di Bartali e Coppi, fa il, nel suo rush finale nel cambiare i partiti, è eccezionale, gli voglio bene. Va bene, Bucci, a presto, arrivederci. Spero di conoscervi ciao, presto. Ciao, a presto. Ciao. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara di Giuseppe, provincia di Roma. Giuseppe? Sì, dimmi, dimmi, sì. Dai. Buonasera a tutti. Vorrei tranquillizzare tutte le persone che la pensano come quell'ascoltatore di Andrea che ieri sera ha detto di Parenzo, un sacco di cose. E voglio dire che non c'è bisogno di rivolgersi a Tom Ponzi. Infatti ho scoperto che Parenzo non esiste. In quel corpo c'è Brunetta che indossa questi panni quando deve appagare il proprio alter ego. Cioè, non ho capito, no, scusi, adesso sia più chiaro, però che qui non è che siamo. Mi spieghi bene sta roba. Cioè, allora, se ascoltiamo quello che dice Parenzo e il modo in cui lo dice, vediamo che ha lo stesso modo di parlare di Brunetta. Ma a proposito di che? A proposito di cosa? A proposito di tutto. Cioè cambia, è il Brunetta di sinistra. Ah, è il Brunetta di sinistra, cioè l'antipatia, lei dice, di Brunetta trasferita. Diciamo che Brunetta è sempre lui che quando ha bisogno di sfogarsi un po', indossa i panni di questo Parenzo. Ho capito, capito Parenzo. Ma a me non sembra una cosa che fa così ridere però. No, ma infatti manco a me, comunque. Però magari va bene. Vabbè, Gabriella da Roma, dai, Gabriella. Non mi faceva ridere, ma magari non ho capito io, chiedo scusa. Dimmi, dimmi. Che squallore, guarda, sentire quello che cambia tutti quei partiti, ma vi rendete conto? No, beh, ha cambiato quattro partiti in 14 anni, va bene. Ma dai, ma come si fa? Ma io dico una cosa, ma noi italiani veramente siamo stufi di tutto. Quell'altro Alfano che fa, mo perché sta al governo, cioè, guardi, è una cosa schifosa. Io voto Berlusconi. Lei vota Berlusconi, vabbè, allora? Sì, sì. E allora io voglio dire, parlano tanto di Berlusconi, delle donne, sì. Ma beato lui che c'ha le donne vicino, qui sono tutti orecchioni. Come sono, scusi? Come sono? Come si diceva una volta, orecchioni. Orecchio, no, gli orecchioni erano un'altra cosa, gli orecchioni è una malattia, i recchioni sono un'altra cosa. Recchioni, scusa ricchioni. La parola. Tutte queste donne sole si lamentano che non ci stanno più gli uomini, sì. È vero o no? Ma non lo so, non credo proprio che sia così. Ma guarda. Come non crede? Ma lei vede, sono tutte donne sole, sì, tutte proprio, che hanno 70 anni magari, 60, si conciano come ragazzette dei 20 anni. E dunque parlano male che Berlusconi va con le donne, ma fa bene che va con le donne, lasciamo perdere, va. Senti, adesso non è che ci vada molto... Cioè ormai si è fidanzato. Ma che ne sa, che c'è una bomboletta d'ossigeno. Ma si è fidanzato adesso? Si è fidanzato? Sì. E perché? Mo perché uno è fidanzato non può avere altre donne, scusa. Ah, sì, ma tutta la vita. Ma meno male, hai visto com'era Arzillo? Ma hai visto la conferenza fa? Ma insomma, Arzillo. E dai, su, ma poi hai visto quanto è simpatico, altro quel Pinocchio di Terenzi. Scusa la parola, tutte queste donne sole si lamentano che non ci stanno più gli uomini, è vero o no, Cossani, che è così? Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda. Questo è il decreto, è in fase di coordinamento testo con i singoli ministri. Sarà, credo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'inizio della settimana prossima, ma questo consentirà di erogare i mitici 80 euro fin dal mese di maggio. E quelli che non sono dipendenti? E le partite IVA? E quelli che non hanno veramente una lira, cioè dire gli incapienti, non i dipendenti, che fine fanno? Beh, quello poi si vedrà, eh? Quello poi si vedrà. Tu dici che sono... Pignolo, no, è un po' di che non mi accontento mai, eccetera. È un po' di Benaltri. A me sti 80 euro. Quando non fa le cose, sì, mi va detto che non le fa, che è un chiacchierone. Sì, ma gli 80 euro mi pare una cosa alla Achille Lauro, guarda, veramente una cosa alla Achille Lauro. Achille Lauro regalava la pasta. È uguale, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Poi lui dice che saranno strutturali, vediamo. Robetta. Ma sempre robetta, meglio dare robetta, che togliere, scusa. Robetta. Ma non è che si può criticare a prescindere. Io anche Robetta, per... mi aspetto le rivoluzioni, non la robetta, non i piccoli tocchi. È una rivoluzione il taglio delle auto blu e il taglio, ma sì, taglio dei manager. Intanto vediamo, massimo 5 auto al ministero, vediamo. Ma vediamo. Ma mi sembrano pure troppe 5 auto al ministero, ripeto. I sottosegretari vanno a piedi, ma per carità, ma... Strano che non ci siano andati fino adesso a piedi. Ma non c'è dubbio, ma infatti va bene che sia così ora. Poi vediamo, il primo che ti becco, non a piedi, vediamo, il primo che ti becco. Oh, voglio capire come commenta il TG3, il molto renziano TG3, questi provvedimenti di Renzi e altre cose ancora, Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi via libera al bonus di 80 euro già dal mese di maggio, è rinviato l'intervento per gli incapienti, giù l'IRAP del 10%. Stipendi dei dirigenti pubblici, tetto di 240.000 euro, niente tagli alla sanità, dalla RAI contributo di 150 milioni. Il ministro Alfano basta con i saccheggi e i cortei violenti o chiudiamo il centro di Roma, no all'identificativo per gli agenti. Lettera di Napolitano al Corriere della Sera, ho pagato un prezzo alla faziosità ma il bilancio è positivo, riforme con maggioranze più ampie. In Sicilia ogni lavoro trovato dai centri per l'impiego costa alla comunità 13.000 euro, negli uffici quasi 2.000 dipendenti. Naufragio in Corea, studenti quasi tutte vittime, si suicida il vicepreside, il comandante subito in salvo, al timone il terzo ufficiale, 26enne. Commozione nel mondo per la morte di Gabriel García Márquez, uno dei più grandi narratori del Novecento, vivrà anche nelle generazioni future, dice Obama. Ronda, se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia proprio addosso a me. Casarini mi fa impazzire, questo Casarini che vorrebbe l'identificazione dei poliziotti, per esempio dice come fa la magistratura a indagare senza i numeri identificativi, ma la magistratura indaga perché alla fine i poliziotti vengono riconosciuti, certo, ogni tanto come in tutti i corpi di polizia del mondo c'è un po' più di protezione rispetto al resto dell'umanità, ma è una cosa normale, avviene uno stato forte. Oddio, che palle che sei, mamma mia. È in grado anche. Sì, ma in questo caso non è successo nulla, guarda, ti posso rassicurare, non è successo niente. Non lo decidi tu. Sì, vabbè, invece lo decidi tu. No, neanche la. Senti Casarini, senti il tuo amico Casarini, dai. Beh, Casarini è un mio amico, sì, è vero. Sì, senti il tuo amico Casarini. Quando si vedono queste scene si sta sempre dalla parte della polizia. Scusi. Perché quelli rappresentano... Come fa la magistratura a indagare un poliziotto che non ha il numero identificativo nel casco e come ce l'hanno in tutta Europa? Pare che sono identificati benissimo. No. Guardi, è stato un problema. Si è già trovato, esatto. Però. Il poliziotto ha già un nome e un cognome. Quello in borghese, ma... Invece sta proprio addosso a me. Ancora Casarini, dai, il tuo amico Casarini. Io voglio il numero perché, le spiego, c'è anche un problema di messaggio. Se uno sa di essere impunito e come sono tutti in global, tutti i colori bianchi, sono niente. Tutti impuniti. La cosa incredibile è che pure il mio amico Salvini è d'accordo, sia i codici identificativi per i poliziotti. Oggi intanto hanno scarcerato i dipendentisti, questa buffonata. Rocchetta. Questa buffonata, Rocchetta e altri, alcuni sono rimasti domiciliari per la questione del tanco. Pare che cada l'accusa di insurrezione là. Io dico una cosa, quando tu accusi delle persone di fare insurrezione nei confronti dello Stato, o hai delle prove certe, immediate, per cui questi vanno a processo per direttissimo, come si diceva una volta, oppure oppure non fai questo cinema facendo pensare che sono stati presi, no, degli insurrezionalisti, dei pericolosi, vero, terroristi, che poi vengono scarcerati dal tribunale di riesame. Buffoni! Lei è d'accordo con i codici identificativi? Sì, anche se io sto con i poliziotti. Io sto con le forze dell'ordine che rischiano la vita per 1200 euro al mese per farsi tirare i sassi. Ma vogliamo ricordare Riccardo da Roma? Che dici? Lo vogliamo ricordare Riccardo da Roma oppure no? Sto facendo diventare quel volgare aggressore di anziane vecchiette, quel volgare aggressore di vecchiette, una star praticamente. Vabbè, ma perché ha preso a male parole Anarella? Abbi pazienza. È una star in ogni caso. È una star in ogni caso. Anche perché è un coniglio, perché questo Riccardo, glielo dico, perché se si fosse, perché Anarella era assente, ma fosse stata in linea, se lo sarebbe divorato Anarella, Riccardo. Ma questo non lo so. Comunque, Riccardo, mettili in collegamento entrambi, vediamo che succede. Riccardo, fancazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io in giro. Io giro, ne faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche coi rasta, fasse i cannoni, coi libri, oppure oppure andiamo al centro sociale, ma vattene a fanculo, ma vai a lavorare, impara un mestiere. Poi se lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati i lavori li danno tutti agli immigrati, e te credo, te sa fa cazzo. A me non mi sembra che questa è stata, che questa ci ha avuto 18 costole rotte. Questa stava in mezzo a gente che menava, stava in mezzo a gente che menava, che tirava bombe, carta, quell'altro gli è zompato la mano, stavano tutti con i manganelli, con i caschi, con le spranghe, con tutte queste cose. Allora, se tu te metti in mezzo a gente che mena, qualche pizza la prendi pure te, no? Adesso sono circondato, ci sono stesso. Mamma mia, secche di merda, avete distrutto questo paese dal 68 e poi con questa propaganda idiota. Dateci lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa, sì, mo vediamo tutto, non vedo. Ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose, meritare! Basta che piede una ballerina! Il problema di questo paese è solo che ormai siamo al degrado totale, perché se ci fosse un minimo di regola li chiuderebbero tutti quanti in un bel campo da calcio con i poliziotti e direbbero adesso carta bianca, carta bianca, te faccio vedere come torni all'università, a piani e torni all'università. È bella roba, è stata una bella figura. Quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure a Babbiona, mo. Manco più nei programmi degli amici tuoi ti prendono, manco più nei programmi dei rossi, sei fallito, sei. Parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesto, e adesso parlano di meritocrazia? Loro che hanno diviso l'Italia in due, ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano, e poi ci siamo tutti noi di serie B, anzi C, Z, no? A seconda della condizione. E loro però dicono che mo ci deve essere la meritocrazia. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Ah, sono cavoli vostri. Parenzo, vuoi dare una chiosa a questo Riccardo, a questa, come dire, no? A questo blob di Riccardo, dimmi. Caro Riccardo, ti farebbe veramente bene passare qualche settimana in un ospizio a pulire. Ma che c'entra adesso questo? Mettere agli anziani, avere più rispetto. Ma tu ti attacchi a questa cosa? Che c'entra adesso, Anarella? Dai. Ma io mi so difendere benissimo. L'aggressione nei confronti delle persone anziane è vomitevole da parte di questo Riccardo. Ah, perché aveva detto una cosa su Anarella in pensione da 40 anni, Babbiona, cosa aveva detto? Sì. Babbiona, 40 anni. Appunto. Quella vecchia Babbiona, ma che ha detto prima, che è andata in pensione nel 75? Cioè, siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. quanti anni c'hai? Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 anni, sono 40 anni che sta in pensione, ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Babbiona! Moschito che hai avuto tu? Ottima trasmissione, sempre la migliore! Ma che me ne frega a me, io conosco Giuseppe e Davide, è sufficiente. Allora, non capisco, Parenzo, perché a me il prefetto di Roma non mi dà, anzi di Milano, scusate, ho avuto un attimo di un lapsus su Roma dove non abito da 14 anni, non capisco perché il prefetto di Milano non mi dà le chiavi, che ne so, del Castello Sforzesco. Certo. Io voglio le chiavi del Castello Sforzesco, voglio andare a correre la sera dentro il Castello Sforzesco. Scusa, se Cosentino, Nicola Cosentino, ha avuto per anni dal prefetto di Caserta, vergogna, vergogna, vergogna, ma è lo stesso che c'è adesso il prefetto di Caserta o no? Perché se è lo stesso bisogna chiamare, No, non credo, no, mi segnalano di no, non è lo stesso. Se ha avuto per anni dal prefetto di Caserta le chiavi per andare a correre, cioè per farsi i cazzi suoi della reggia di Caserta, se è vero questo, se fosse confermata questa cosa qui come sembra, beh, questo signore, se è ancora un funzionario dello Stato, vogliamo fare qualcosina nei confronti di questo signore, oppure prendere qualche provvedimento, oppure bisogna che questa cosa passi in cavalleria? Che a me non me ne frega nulla le accuse, Cosentino, tutta roba che deve essere provata, ma uno che c'aveva le chiavi della reggia di Caserta per andare a fare running, amico mio. Tra l'altro, mentre faceva running, era anche intervistato. Sì. Ormai non faccio più politica, mi sono consegnato al giudizio dei giudici ed è là che sono interessato. Il mio orizzonte sono i processi e la mia famiglia. Sono piccole, insidiose, fastidiose, le zanzare. Di politica non ne voglio più sapere. Quindi anche di fronte a questa scissione che c'è stata, lei non prende una posizione, non sa se andrà con Berlusconi o con Alfano? Non è il mio impegno, non è il mio orizzonte. Porta bene le zanzare, sanno amare. L'altra cosa incredibile è che i tribunali italiani veramente si occupano di tutto. Adesso ti farò incazzare con questa cosa. Allora, ti ricordi l'assessore della Lega Nord in un comune in provincia di Brescia, il comune come di Coccaglio? No? Quello che aveva messo, mi pare, la foto. Bravo. La foto scimmia, della scimmia accanto alla Chieng separate accanto alla nascita, no? All'ex ministro Chieng. Sì, alla Chieng, sì, alla Chieng. Ministro. Sì, all'epoca ministro Chieng, con la faccia della Chieng e con la scimmia e con la scritta sopra separate alla nascita, no? Sì, allora, bravo. Il tizio si chiamava, credo che l'abbiamo intervistato anche qui alla Zanzara, sicuramente Agostino Pedrali, il quale è chiaramente ha fatto una coglionata, ma è stato condannato a 2 mesi di reclusione. Oh. Cioè gli hanno dato 2 mesi, cioè i tribunali italiani. Vedrai che non lo fa più. Per non sapere né leggere né scrivere. Vedrai che non lo farà più. Dai, su. Ma vedrai che non lo c'è farà uno, più. C'è uno perché su Facebook scrivono. Allora, praticamente bisogna. Guarda, dovrebbero ovviamente niente carcere, dovrebbero convertirgli la pena, questo è il suggerimento che do alla procura di Brescia. E mandarlo per 2 mesi a vivere, e ripeto a vivere. Dove? In un campo rom. Ma che c'entra adesso il campo rom con la Chieng? Per il razzismo, per combattere il razzismo. Allora, è stato condannato a 2 mesi di reclusione, pena sospesa, per diffamazione aggravata da finalità di discriminazione etnico-razziale, Agostino Pedrali, ex assessore della Lega Nord. Semplicemente perché su Facebook ha scritto: dite quello che volete, ma non assomiglia ad un orango. Guardate bene, e c'è una scimmietta e accanto la Chieng separate alla nascita, signor Pedrali. Semplicemente. Dai, su, amico mio, però uno non è che può far perdere tempo ai tribunali in questo modo. Cioè, i tribunali italiani dovrebbero occuparsi di altro, non di queste puttanate. Questo ha scritto una coglionata, punto e basta. I tribunali facciano altre cose. 2 mesi a una persona, 2 mesi per una cosa del genere, perché ha messo 2 fotografie sulla pagina Facebook. Dai, su. Andrea da Pesaro. Salve, buonasera. Dimmi. Con molta più pacatezza, derivanti dai quasi 54 anni rispetto a quel romano imbufalito con tutti, con le zecche, che non mi ricordo come si chiama, io volevo dire che la questione fondamentale non è quella questione della come si dice, dell'impunità dei poliziotti o della necessità che vengano identificati, ma è il commento infame del capo della polizia, che con un accento sgradevole, che mi meraviglio che un dirigente dello Stato di altissimo livello che prende 600.000 euro parli con un accento che è peggio di Cosentino. Vabbè, ho capito, adesso uno non può parlare... Stupido, senza sapere nulla. Allora, siccome questo Stato, siccome dice lei, lo ripete sempre, è uno Stato di buffoni, uno Stato di merda, lei l'ha detto un sacco di volte, però bisogna abbatterlo, e non è il modo di andare in giro a tirare le fiondate, le bombe alla polizia, e per un capo della polizia che senza conoscere gli atti, forse ha visto una foto, non sa nulla di quello che è successo, che subito battezza in maniera indecente un suo dipendente, che viene sicuramente poi massacrato. E quando lei dice, come ha detto prima, buffoni, per la questione degli insurrezionalisti veneti che sono stati scarcerati, eccetera, a chi si riferiva? Alla magistratura? Beh, certo, è chiaro. Lei, Cruciani, allora, certo. Scusi, lei può dire a una radio importante come la vostra, con un sacco di centinaia di migliaia, un milione, non lo so, di ascoltatori, può dire che la magistratura è fatta da buffoni? No, ho detto che quei magistrati... Ho detto semplicemente che quei magistrati che hanno messo in carcere delle persone per un reato gravissimo che è insurrezione nei confronti dello Stato, adesso tecnicamente non mi ricordo com'è il reato, o hanno delle prove certe di questo, oppure non è che dopo arriva il tribunale del riesame che li scarcera, perché e li hanno definiti buffoni. Certo, buffoni, sì, scusi, non c'è dubbio. Ma lei che se lo può permettere, perché se un cittadino normale come me o mio nonno o mio zio si permette di dire alla radio che i magistrati, magari lo pensiamo, però non lo possiamo dire, vabbè, sono dei buffoni, finisce in gattabuia. Ma guarda che potrei finirci anch'io, non è detto. Ecco. Va bene, vediamo portare le arance, Cruciani. È una buffonata, quell'operazione... Un attimo, Parenzo vuole battagliare con lei, Parenzo? Un buon Parenzo. Beh, qui in Veneto è un'espressione... Non deplorevole quella che lei ha detto. Beh, insomma, io lo devo dire in termini un po' deplorevoli. Ma dovrebbe essere un pochino più serio nelle sue affermazioni. Le sue argomentazioni. Come io penso che sia da battere questo sistema, lo fa andando a tirare le bombe ai poliziotti o le teste e le fonde. Nessuno ha difeso, senti Giovanotto, nessuno ha difeso. Giovanottino Pirlotto, nessuno ha difeso quelli che tirano le bombe ai poliziotti. Se lei lo ripete ancora, la denuncio, perché nessuno ha mai, io non ho mai difeso i violenti, né quelli con le tute blu che hanno lanciato i lacrimogeni, che hanno lanciato i petardi, che hanno spaccato le difeso. Fermi questi. Tutti, Silvio Reggio Emilia, Silvio. Signor Cruciani, buonasera. Dimmi. Io non posso veramente sentire ascoltatore di Roma inascoltabile. E lei quando condanna i giovani che lanciano i sassi e le pietre alle banche, cioè inascoltabile. Che cosa? Non ho capito Silvio. Allora, se lei, signor Cruciani, fosse stato un 25enne, ok? Sì. Neolaureato, disoccupato, sarebbe stato il primo a lanciare i sassi alle vetrine, alle banche. Ah, cioè, secondo lei uno che non ha lavoro, disoccupato, deve lanciare i sassi contro le vetrine? Ma scusi. Silvio, non ho capito, se uno è senza lavoro, è giustificato a tirare sassi alle vetrine? Cioè, allora, dopo 10 minuti che ti fai un giro al bar, ok? E ti trombi l'amorosa, dopo mezz'ora non c'hai un cazzo da fare, o lavori, o cosa fai in casa? Ah, vai a tirare i sassi alle vetrine, ma lei è malato di mente, ma lei è veramente malato. Lei è malato, cioè, secondo lei chi non ha un lavoro innanzitutto va a manifestare a favore del lavoro, già una follia, invece di cercarselo. E dopo tira i sassi, è giustificato a tirare i sassi? Esperienza personale, io ho fatto 4 colloqui presso istituti di credito, sì. Okay, e allora? Per fare il cassiere, mi hanno chiesto tassi di cambio. Ma scusi, adesso non ci racconti la sua esperienza che non ce ne frega niente. No, però è una presa per il culo. Ho capito, lasci perdere, Silvio. Lei può anche aver avuto difficoltà, eccetera, ma non per questo nessuno è giustificato a tirare i sassi a nessuno, ha capito o no? Sono presi per il culo. Vabbè. Presi letteralmente per il culo. Vabbè, senta Silvio, vada a tirare qualche sasso. Io spero che la arrestino immediatamente sul posto, cosa che non avviene quasi mai, perché quei vigliacchi si portano dietro i passamontagna, ha capito? I caschi, grazie. La zanza, la zanza. zanza, la zanza, la zanzara stronza. È con noi, prima volta alla Zanzara. Sono molto contento. Veramente la seconda. La seconda? La prima è finita male? No, la prima è quando dissi quello che pensavo di Napolitano e eravate tutti sconvolti. Bah, sconvolti. Forse era un'altra epoca della Zanzara. Quanto tempo fa era, Bianconi? Ma sarà 3 anni. Nel 2011 mi pare che dissi che Napolitano stava fregando Berlusconi e mi telefonò lei, e aveva Telese, mi pare, con lei. Può essere, sì, no, 2011 c'era pure Parenzo in realtà, però evidentemente c'era anche Telese, c'era anche Telese. Vabbè, Maurizio Bianconi, Forza Italia, deputato, buonasera. Buonasera. Bentornato. Senta, i gufi sono stati, tra i gufi Renzi dice, presentando i suoi provvedimenti, che sono stati smentiti i gufi, lei che dice? Dico che è il solito cazzaro. Cioè? Perché poi vedremo poi questo decreto legge cosa c'è scritto. Vabbè. È un linguaggio molto calcistico quello dei gufi. I presidenti, quando dicono le partite, dicono che i gufi della curva sud sono stati smentiti, e lui ha questo linguaggio. Vedremo un po', ecco, non sono molto sicuro da quello che ho sentito rapidamente. Sì. Tutto quello che ha promesso, cioè soprattutto i tagli strutturali e non lineari, vadano bene. Però una cosa devo dirle, l'ho sempre detta, cioè? Io sono d'accordo con chi pensa che l'economia si rimuova non tanto abbassando l'IVA, quanto piuttosto mettendo nei redditi più bassi qualcosa più in busta paga. Dunque, da questo punto di vista fa bene, sarà un cazzaro. Sì, sì, questa è cazzaro nella comunicazione, poi non è un bischero, questo è un altro discorso. Ma siete un po' invidiosi di quello che sta facendo? Ci sono io l'invidia è un sentimento che io ignoro. Lo ignora. L'invidia è il sentimento dei cornuti, sai, io poi potrò anche essere perché è destino della vita, però non è che mi ci sento. È sicuro di non essere cornuto, no? No, questo non può mai, anzi. Non si può sapere, dice lei. Oscar Wilde diceva, lui le conosceva bene le donne. Che diceva? Può darsi che esista nel mondo una donna che non ha mai tradito suo marito, può darsi. Può darsi. Ma non esiste mai una che l'ha, non esiste nessuna che l'ha tradito una volta sola. Quindi lo sai Bianconi, quindi che siamo tutti indiziati gravi. Però devo dirti la verità, Parenzo, lo sai che io invece penso che, conoscendomi Parenzo, lo puoi immaginare, io quasi preferisco essere tradito qualche volta. Cioè, mi dà un senso di realtà della vita, cioè è irreale che uno sia fedele per tutta la vita. Ma questo è un atto di masochismo. Esatto, cioè il tradimento. Ma lui è masochista. Cioè la fedeltà non esiste, diciamo la verità, Bianconi. No, su questo... più che di fedeltà si tratta di realtà. Cioè di dire le cose. Chiaro non è male, insomma. Cioè dire le cose. Sì, se condividi l'esistenza, l'abitazione, i figli, i futuri, le aspirazioni, non vedo perché ti debba fregare in sotterfugi, insomma. Non mi sembra che cioè, sia. Cioè, quando uno tradisce lo deve confessare, dice lei. Dice, sì, perché è un atto di realtà. Ma lei l'ha mai fatto? Se ne può anche discutere. Lei l'ha mai fatto? No, io non tradisco mai. Non tradisce mai? Monogamo, lei, ma al contrario sono, di sono cambio spesso, ma monogamo. Monogamo. Una per volta perché sono pigro, quindi a tenerne più di una. È il contrario di Berlusconi, insomma, o no? Ah, non lo so io questo. Beh, non lo so, così dicono. Non l'ho avuto, ecco, sì, secondo le chiacchiere. Secondo le chiacchiere, sì. Senta, però, lei rimane ancora convinto che dopo questa conferenza stampa di oggi, ancora le notizie sono tutte da verificare, lei ha perfettamente ragione, bisogna vedere le coperture, dove vengono, come vengono, in quanto tempo, eccetera. Che Renzi sia una sorta di mix, che ha detto una volta lei, tra Fanfani e Otelma? Sì. È così, sì. Fanfani... È un uomo molto furbo, molto rapido... Ed esattamente sa come fregare gli italiani, l'ha presa dal verso giusto. 20 anni fa il verso giusto l'aveva individuato Berlusconi, questa volta l'ha individuato lui. Ma, dunque alla fine vi frega? Sì, è un superficiale. Cioè, lui è bravo, non so se avendo l'idea con questo che voglio dire. Longanesi diceva di Montanelli che era bravissimo a spiegare agli altri le cose che non capiva neppure lui. E Renzi è un po' la stessa cosa, cioè è un superficiale, sente dire delle cose, sì, rimette insieme, spieguccia come la gente gli piace sentirlo e sono tutti contenti, ma non ci ha capito un cazzo né lui né la gente, capito? è una forma di comunicazione traditrice che poi non corrisponde alla realtà dei fatti, e questo è la sua fortuna di questo momento. Io non sono invidioso, ma vi sta fregando in qualche modo o no? Secondo lui lei governerà, io penso, una ventina d'anni. Vent'anni. Che era il sogno di Berlusconi. Compagno, no? Perché sì, ora lui si è iscritto al Partito Socialista, quindi è compagno, sì, ma nella realtà, nella sua idea c'è di mangiare tutti i voti del centrodestra, ed è qui anche in questa truffa è caduto Berlusconi. Cioè allora ve lo state facendo mettere in quel posto, diciamo la verità. Io lo scrivo tutti i giorni, come lei. Se lei mi dà un'occhiata, ci sta fregando in una maniera magnifica. Detto in maniera, come dire, secca, ve lo sta mettendo in quel posto. Sì, ma perché ha capito il punto debole del capo, cioè il capo in questo momento si trova in ansia da prestazione istituzionale, sì, e, sì. Quindi, e quindi vuole essere al centro della scena, sì, non capisce che al centro della scena ci sarebbe comunque, sì, perché prende i voti, è capo del centrodestra, dell'unico partito plausibile, ma vuole il di più, vuole essere partecipe delle riforme, e lui lo riceve a Palazzo Chigi. Intanto non va a Palazzo Grazioli come tutti gli altri, sì, lo riceve a Palazzo Chigi, lo riceve al Nazareno, sempre a casa sua, glielo fa giocare sempre fuori casa. E dice anch'io, Paolo. Allora la gente ha visto questo prende in considerazione Berlusconi, e poi Berlusconi dice che bravo, non è un cazzare, bravo, e la gente nostra che è abituata a guardare verso l'alto, sì, cioè cerca un punto di riferimento, dice ma l'ha detto anche il presidente che bravo, e dunque punto di riferimento, tutti i voti. Ah, vi toglierà tutti i voti? Tutti i voti. Nel giro di un anno farà peggio di Monti. Cioè, peggio di Monti. Monti mica ve l'ha tolti i voti, scusa. Monti ci aveva ridotto all'11%, voi non ve lo ricordate. All'inizio, Seguire la politica di quello che io ho definito il criminale di pace Monti. Sì, il criminale di pace, processato Monti. Processato Monti. Monti è stato l'uomo che al servizio degli altri ha praticamente impoverito scientemente l'Italia. Cioè processato, secondo lei andrebbe processato? Certo, è un atto di tradimento, credo, è proprio. Sì, eppure sì, Napolitano, sì, magari. Ma come, certo? No, Napolitano non va processato, Napolitano va mandato a casa. Cioè chi era Napolitano si sapeva prima e dopo, sono gli italiani che ne hanno capito. Uno che prima ha fatto 10 o 15 legislature, che ha 88 anni, che è stato comunista in tutti i modi, sì, poi è stato migliorista, poi nel 78 è andato in America, e perché, sì, è andato in America nessuno se lo può chiedere, e parla così bene inglese, gli americani gli vogliono tanto bene e nessuno se lo vuol chiedere. Putin, se aprisse quegli archivi, vedrebbe tante cose, ce le manderebbe. Uno che ha più di 30 anni, cioè aveva più di 30 anni, quindi era uno che capiva, non era uno scemo, ha detto che i sovietici hanno fatto bene in Ungheria, e uno fisiologicamente inattendibile. E dunque? Va tolto di mezzo e basta. Cioè, ma non poteva fare il Presidente della Repubblica in una democrazia compiuta. Capito, Parenzo? Ma no, adesso voglio dire, il compagno Bianconi. Non è compagno Bianconi, per carità. Io non sono compagno, sono abbastanza. La domanda è a questo punto: ma lei è ancora di Forza Italia? Io mi ci sono trovato in Forza Italia, Cruciani. E adesso che cos'è? Alleanza Nazionale. Credo nel PDL, ci ho creduto. E Forza nella Italia? Riunione, nella più grande cosa che ha fatto Berlusconi, riunire tutti quelli che non erano catto comunisti, che era il PDL. E adesso? Non ce l'aveva fatta Mussolini, non ce l'ha fatta Giulitti, non ce l'aveva fatta Craxi, non ce l'ha fatta De Gasperi, ce l'aveva fatta Berlusconi. E adesso? Dopodiché ci hanno detto di trasmigrare in Forza Italia e io, siccome mi hanno eletto lì, obbedisco. Obbedisce, però, insomma. Obbedisce, ma lei non è una persona, mica. Scusi, ma che faceva in America Napolitano? A proposito, ce lo no, dica, io cosa facevo? Ce lo dica lei allora. Mi meraviglio che nessuno si sia domandato come un signore nel 1978 sia il primo comunista che va in America e sia così ben visto dagli americani dal 1978 ad oggi. Questo io me lo domando, e sarebbe bene che non me lo domandassi. Ma lei sa già la risposta. Non sono un complottista, ma sono uno che conosce un po' di politica. Ma lui, anche Napolitano, ha commesso crimini come Monti? No, Napolitano è stato l'artefice della fede di Berlusconi ed è stato, come Monti, uno strumento di chi ci vuole morti. Cioè la grande finanza, Bilderberg e tutte queste robe qua. Lei su questa cosa ci scherza e fa male. Ma no, ma Bianconi, dai. Lei fa molto male perché non si tratta di un complotto. La gente pensa che si tratti di un complotto e quindi la reazione, mi perdoni, un po' superficiale. Pronto? Sì, la sento. No, sento un po' superficiale. Ah, il complotto. Non c'è mica nessun complotto, sa. E che c'è una visione del mondo. C'è una visione del mondo. Ma qualcuno deve aver tramato, lei dice. Deve aver tramato. No, nessuno ha tramato. Tutti sono stati funzionali a questa visione del mondo. Non c'è una trama. Qualcuno non potrebbe c'è dire la gente qualcuno cattiva che la notte si riunisce e tira le coltellate e fa le cose segrete. Non ci sono le massonerie. E chi c'è? E chi c'è che ha destituito? Un disegno lucido del liberalismo internazionale che vuole certe cose, vuole il libero mercato. Il libero mercato presuppone la fine degli stati nazionali, presuppone la, diciamo così, sudditanza della politica al potere finanziario, presuppone l'eticità del mercato che si dovrebbe autoregolare da sé, e questo ha trovato alcuni strumenti. Ma Bianconi, I teologhi di questo sono in Bilderberg e, diciamo così, il braccio armato di questa idea è un'idea di Rockefeller che l'ha presa nella commissione che tutti hanno attivato, un'associazione segreta l'ha attivato, se lei va in internet e vede chi c'è, non è mica un delitto. Ma lei altro che complottista. È una visione del mondo. Ma lei altro è che una complottista. Visione del mondo che fa dire a Monti, alla e poi viene fuori alla CNN che gli italiani devono impoverirsi perché consumano al di sopra delle loro possibilità e ha fatto non so quanti milioni di pensioni di disoccupati, ma sicuramente oggi dopo Monti 5 milioni di italiani patiscono la fame e 9 milioni sono poveri. Per andare però più vedrà che metteremo i conti in pareggio. Però per andare più terra a terra e poi abbiamo la pubblicità, ma scusi, Scajola è stato forse aulico, non molto aulico, molto aulico Scajola. È stato fatto fuori ingiustamente, proprio brevemente. Io sarei stato molto incerto nell'una e nell'altra cosa. Io ritengo che se Scajola non è stato candidato non è stato un male, però se Scajola non è stato candidato nelle liste si doveva stare più attenti a altre situazioni. Coerenza voleva che quelli che erano indagati o addirittura condannati fossero fuori. Vabbè, torniamo tra un attimo. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Molto brevemente, lei conduce una trasmissione ricreativa, con momenti di disinvolta volgarità e momenti di divertente pettegolezzo e qualche insulto. Allora, ho ripensato a una cosa, caro David. Lo sai che i magistrati che dicono a Berlusconi che non può parlare male della magistratura è una follia? Cioè, quando nel provvedimento quello che dà i servizi sociali a Berlusconi dicono, tu puoi fare... Ma quella è la vera pena. Sì, lascia perdere, ma questo l'abbiamo già detto, però fai questo. Sì, d'accordo, però ti sto dicendo che per me è una follia se ci pensi bene. Ma cioè, dovrebbe valere per tutti, che vi riprende la magistratura vale per no, te, per ma me, sì, per il compagno oddio, Bianconi. Sì, ho capito, ma non ripetere banalità. No, cioè, ma ti nel sto... caso di Berlusconi, siccome l'uomo è recidivo, perché più volte si è manifestato in quello sport... Io ti sto dicendo una cosa, se tu dai servizi sociali a una persona e poi gli dici tu puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi, però non puoi parlare male di noi. Scusa, ma se Berlusconi fa campagna elettorale, insulta, non so, o comunque dice una parola sgarbata nei confronti degli insegnanti, che sono pur sempre un corpo dello Stato, se vogliamo, no? Sono pur sempre sono dipendenti pubblici, oppure se la prende con i vecchi. Adesso questo è difficile perché ovviamente è in una struttura per gli anziani, o se la prende con i allora questo è possibile? Cioè mi sembra più ci penso più mi sembra una cretinata questa qua. Non capisco perché Berlusconi non può fare campagna elettorale e parlare, diciamo, anche in termini forti della magistratura. Bianconi, lei che dice? Non è una cretinata, è un'improprietà. Perché Berlusconi è stato condannato e quindi è un uomo da riabilitare, da rieducare. Vabbè, questo tecnicamente. Della rieducazione è il re ipsa che debba rispettare le istituzioni, compresa la magistratura. Sì, quindi d'accordo. Era inutile che lo dicessero. Il fatto che l'abbiano detto gli hanno fatto fare la figura dei cretini. Non c'era nessun bisogno di dirlo per non farglielo fare. Cioè, allora sono dei cretini questi magistrati che hanno detto a Berlusconi. Certo, hanno commesso un errore madornale. dimostrando quasi di aver paura di quello che quest'uomo dice, perché in realtà se stavano zitti e non ci scrivevano niente, lui avesse parlato male dei magistrati, gli poteva arrivare la revoca del provvedimento e sarebbero stati dentro la legge. Scusi, ma se Berlusconi parlasse come lei, no? Che dice che è napoletano, sì, è quello che è, eccetera, eccetera, anche quella potrebbe essere considerata una roba, no? Una roba per cui revocare i servizi sociali. Secondo me la possibilità di uno che ha i servizi sociali di esprimere i suoi concetti non essendo più parlamentare è molto molto limitata. Io queste cose su Napolitano le dico qui perché le ho dette in aula, le ho messe, sì, in interrogazioni, sì. Quindi ho una sorta di privilegio, diciamo così. Cioè, ma non ho capito, Berlusconi comune avrebbe qualche problema, sì. Cioè, secondo lei oggi Berlusconi è tecnicamente un cittadino comune sottoposto a servizi sociali. Ma Berlusconi, quindi, dunque farà una campagna elettorale dovrebbe, però chi lo tiene, dovrebbe. Ma farà una campagna elettorale un po' soft rispetto a... Guardi, Berlusconi è, come dico spesso io, un uomo straordinario, cioè extraordinario, o cioè? bene, o male. Però una cosa che ha dimostrato sempre di saper fare sulle campagne elettorali. Lo so, però stavolta è un po' limitato. Cioè, è un po' Lo so, ma questa volta secondo me è debole il messaggio. È debole il messaggio, eh? Cioè, dove state? Che fate? Le scatole dovrebbe essere più forte, dovrebbe far capire bene perché collabora con le riforme, perché non attacca frontalmente l'euro. Per lei l'euro cos'è? Una prigione? Una follia? L'euro è un grande sbaglio. L'euro è stato, diciamo così, l'esposizione del maggior totem culturale dell'idea del mercato assoluto liberale e che ha un presupposto tecnico-economico. Vabbè, lei uscirebbe subito dall'euro, Bianco? No, non è mica facile. No. Direi un tot tempo all'Unione Europea per variare alcune cose, qui è inutile stare a dire. Ma lo sa che io l'ho vista però ultimamente in televisione, adesso per tornare a cose un po' più future, sì. L'ho vista un po' ingrassata, devo dire la verità. No, ho smesso di fumare, io fumavo 50 sigarette al giorno. 50? Ho smesso di fumare e sono ingrassato 15 kg. Mamma, l'ho visto ultimamente in televisione con i capelli lunghi, ingrassato, l'ho pure detto. No, i capelli sono corti, ma visto male. Adesso sono corti. Sì, i capelli sono corti e ho una pancia vistosa. Mamma mia, una cosa pazzesca. Cioè, non sono più bello, ma ormai... Ha cominciato a mangiare come un matto allora? No, non lo so, probabilmente sì, prima mangiavo meno, fumavo come un dannato e ho smesso di fumare. Capito? E ora cercherò di ritornare quantomeno ai limiti decorosi. Senta, ma mi dica la verità, sto Toti, ma ha qualche chance? È uno che ve lo vede in grado? Dice? Sto Toti qua, è uno che lo vede in grado di oppure mi ne sembra un personaggio? La fiducia del presidente. Vabbè, ho capito. E dunque? La politica è una cosa difficile per chi gli vuol bene. Allora? E non ci si improvvisa politici. Una cosa è stare fuori dell'acquario come fa lei, scrivendo, divertendosi, commentando, eccetera. È una cosa sta dentro l'acquario, fare il pesce, mangiare e essere mangiato. E dunque Toti non le sembra in grado. Non le sembra in grado, sì. Ancora è un po' inesperto, è come Renzi quando fa primo ministro, che non ha capito che fra sindaco e primo ministro c'è la sua differenza. Beh, però Renzi mi sembra già rispetto a Toti. No, e lui pensa di comandare, non comanda un cazzo lui, perché il primo ministro non comanda niente. E allora manco Toti. Altri ministri, neppure Toti comanda. No, Toti ha un'altra funzione, deve consigliare Berlusconi, ma non ho capito se lui consiglia Berlusconi o Berlusconi consiglia lui. Questo è secondo me è Berlusconi che consiglia lui su quello che fare. Ho questo sospetto. Ma io ho questo sospetto. Avete candidato a voi, consigliare politico è lui. Lo so, che c'è Parenzo? Avete candidato? No, dicevo chi? A Bianconi, un giudizio su queste liste delle europee, perché avete candidato pure Cecchi Paone alla fine, queste grandi battaglie. Il signor Cecchi. Quello va bene, hanno fatto bene, cioè questo. Ma come lei ha detto fuori Ceccacci e dentro dentro. Ma mi faccia divertire. L'Italia cambia verso, che forse Italia non siamo famosi per le oggettive, per tutte le cose. Invece adesso e invece si butta fuori la rubrica Ceccacci a causa di alcuni filmini o alcune espressioni firme e si mette dentro Cecchi Paone, mi consenta di dire che insomma i servizi sociali hanno avuto il suo effetto e Forza Italia cambia verso. Cioè si passa dalle belle donne ai froci, lei vuole dire? Cambia verso, basta. Io non ho questa cosa qui, io sono... non solo sono per chi mi conosce lo sa, insomma, non sono né Giovanardi né mio amico Gaspari, io sono è liberale, sono moltissimo sui froci, è liberalissimo, lei è liberalissimo. No, non ritengo, sa lei tante volte quando parla di queste cose col suo amico gli, sì, mi fa venire in mente Flaiano, cioè? E Flaiano diceva che i fascisti si dividevano in due grandi categorie, sì, i fascisti e gli antifascisti, eh. E così quelli che anche gli omofobi si dividono in due grandi categorie, gli omofobi e gli antiomofobi. Lei a chi appartiene? No, nessuna delle due. Perché non è omofobo? Perché ognuno, quando è adulto, consapevole, fa quello che vuole, con chi gli pare, come gli pare. Cioè lei pure l'adozione vedrebbe bene, l'adozione tra due omosessuali. Su questo ho perplessità. Prima ero negativo, poi parlo spesso con mia moglie che invece è di un'idea diversa e piano piano mi sta convincendo che è una cosa plausibile. Ah, bene. Ma scusi, ma noi discutiamo serenamente, perché sì, certo, io sono favorevole, anche qui vedi siamo agli estremismi, se gli omosessuali smettessero di chiamare matrimonio la loro unione e quest'altro non gli terrebbero fuori la famiglia, un uomo e una donna, eccetera. Com'è che dicono la famiglia tra noi? La famiglia, sì, così, perché sembrano tutte che chi ne richiesa, no, la famiglia, no, non è così. perché è giusto che, insomma, se due stanno insieme si vogliono bene, ma è giusto che uno lascia all'altro il diritto ereditario, che gli lasci la casa, che l'assista, che si sia tutelato in un mondo così difficile. Una società, un'unione civile, una comunità di affetto che diventa una, cioè questo è elementare. Ma comunque il matrimonio, allora vai a ledere alcune sensibilità e alcune regole, e quelle altri dovrebbero dire, cioè, capito? Di religione. Ma anche se uno lo chiama in un altro modo non cambia niente. Senta, il suo amico Papa oggi ha detto che è uno scandalo non rinunciare agli stipendi d'oro e gli amministratori ladri sono come Giuda. Ma non le sembra un po' grillino sto Papa? No, questo Papa è un furbone. Un furbone? In questo caso ha detto: io non sono un comunista, e scusaccio non petita, accusaccio manifesta. Fa anche lui parte del barnum dei comunicatori. Ma come ho scritto, siccome parla così, poi dice che lo io deve essere mantenuto per la salvezza dell'anima, come ho scritto da qualche parte, non basta il nome per trasformare un gesuita in un francescano. Cioè lei dice che è tutta fuffa? No, è fuffa, è comunicazione. Comunicazione. È oggi la comunicazione in una società così superficiale conta molto, e conta anche per il partito della Chiesa. Per cui a lei non è che non è anche loro hanno il loro Matteo Renzi, insomma. Anche la Chiesa ha il Matteo Renzi. Il Matteo Renzi, certo. Capito, Parenzo? No, ma guarda, ci vorrebbe una volta al mese andrebbe strutturalizzato l'angolo Bianconi, in cui il nostro amico Bianconi fa un po' il punto del Parlamento della Cessione, una volta al mese, Bianconi fisso alla zanzara. Io non so se dico, ma io non vorrei dire, cioè penso di non dire delle sciocchezze, dico in tono... Ma chi sono i leccaculo, i leccaculo di Berlusconi che le evoca ogni tanto, chi sono, Bianco? No, questo non lo dico, però ce n'è tanti. Beh, ce n'è è gente che non ha il coraggio di dirgli le cose come stanno, è gente che non lo consiglia meglio. Vabbè, mi dica alcuni, gente lei che sta intorno al capo con l'idea che il capo è il capo e gli devi dire le cose come sono, poi il capo sì, ti tiene vicino. Ma lei ogni tanto ci parla o no? Quando ci parlavo gli dicevo le cose che pensavo, ora non sono più segretario amministrativo di niente, quindi non ci parla. Più occasione di parlare. Vabbè, poi c'è il cerchio magico. Parlavo spesso e gli dicevo di Napolitano quello che pensavo, di Fini quello che pensavo, ma spesso non ero d'accordo con lui, però insomma, lui non mi voleva male. Ma oggi vede la Boschi. Mi dicono a me che nella mia vita ho fatto poca strada perché ho un difetto fondamentale. Qual è? Dico quel che penso e faccio quel che Lo so, ma non me lo dica a me, sono più o meno uguale. Comunque è innamorato della Boschi. Poi non è vero che l'ho fatta poca per i miei gusti. Comunque non è innamorato della Boschi ormai, Berlusconi piace la Boschi, è innamorata di questo. Su questo, insomma, Berlusconi, grande comunicatore, ha capito che la Boschi è il santino giusto. Vabbè. Però dica la verità, insomma. Lei voterà l'Europea un po' turandosi il naso, perché questa lista qui non è che la faccia incitare. Io voto convintamente un partito di centrodestra che è Forza Italia, che non può andare non può andare alle Mengo, lo so, però, che però non è il quale citato. Io penso che bisogna parlare con molta attenzione. Non è un partito che ha un presidente che porta dei voti, e secondo me a questo punto è l'ora di parlarsi chiaro, o si fa un partito o si fa un comitato elettorale, dopo che decideremo. La zanzara è quell'odioso insetto. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non vi abbandonerò mai. Mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che è. Ma lei gira sempre intorno a me. Pino Scotto, Pino Scotto. Caro Parenzo, te lo ricordi Pino Scotto? Come no, il cantante, io lo conosco dai tempi di Rock TV, figurati. Senti, senti, Berlusconi deve andare in galera. Beh, vabbè. Berlusconi deve andare in galera. Allora la legge dov'è? È stato condannato. Deve star fuori. Questo è ancora lì che fa politica. Ma in un altro paese. Un altro con una dignità si sarebbe dimesso 20 anni fa. Questo è ancora lì. È ancora lì a parlare di politica. Comunque sta con Grillo Pino Scotto, l'imprendibile insetto. Senti, senti quest'altra, senti quest'altra invettiva, Pino Scotto. Vi dovete vergognare, siete tutti d'accordo. Ha ragione Beppe, tutti a casa, non ne deve rimanere uno. Perché siete tutti concussi, tutti d'accordo siete. Tutti d'accordo, hai capito? Tutti, sapete tutto di tutti e siete lì con quel loro culo flaccido di merda su quella poltrona che non mollano e non rinunciano a un euro di stipendio quando c'è gente che si sta suicidando. Quelle morte urlano vendette, pagherete, pezzi di merda, pagherete. Tutto questo sul blog di Grillo, Ma è pazzo, Pino Scotto. Senti Controfazio. Ma non è candidato con Grillo? No, ma che candidato? Non è che Grillo candida Pino Scotto, cioè le ci sono le selezioni su web. Ah, lo dovresti sapere, no? Nella rete, nella rete. Sanremo, San pezzi di merda, altro che Sanremo. Sì. Fabio Fazio, quel servo che prende i soldi dalla RAI, milioni di euro e fare un programma di merda dove invita i soliti accattoni, i soliti leccacuri, hai capito? E noi diamo i soldi a questa gente, hai capito? La Litizzetto, che fa quella di sinistra, come tutti quelli di sinistra che vanno al primo maggio, capito? Ma guardate che lo fanno anche in Germania, E poi da un consiglio il mitico Pino Scotto, che ovviamente. Ma perché lo tratti come fosse pane bianco? Scusa, guarda che è incredibile. Che ovviamente inviteremo al più presto il signor Pino Scotto. Sì, Pino Scotto. Ricordatevi del mio progetto con la dottoressa Caterina Vietro. Andate su internet, perché magari i maschietti vanno su internet, su YouPorn, come vado io. Ma andate anche a vedere le cose serie che ci sono. Una botta col bacio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro. Sì, sì, mi segnalano tra l'altro che è stato già ospite qui alla Zanzara il signor Pino Scotto. Sì, è già venuto, ma tu devi sapere questo, che tanti anni fa quando lavoravo a Milano, lavoravo nello stesso posto perché lui lavorava a Rock TV, che è questo TV del figlio del mio amico Galliani. Galliani ha un figlio, che è il presidente. Lui è una persona educatissima in realtà, cioè quando esce dal video, quando esce dal... Cioè tu dici che poi sbrocca solo quando... No, ma è che l'educazione, oh ciao caro dottore, l'educazione è un lord inglese. Poi va in televisione, la sua specialità è quella di fare anche gli urli, il famoso warg. Quindi bisognerebbe invitarlo e chiedi scusa ascolta, puoi farci warg? E lui... Adriano Bologna, buonasera. Ottima trasmissione, sempre la migliore. No, ma non si dice così. Ma non si dice così, Adriano. Vabbè, dai, su, andiamo, dai. Io non sono siciliano, quindi purtroppo anche sono siciliano. Vai, forza. È migliore, è inutile. Lo voterei anche domattina, solo che non si può più. No, Marcellone non si può più votare, Non si può più. Tutti quelli che io ho votato non ci sono più. Cioè tutti i banditi che lei ha votato, adesso tutti dico così, genericamente. Craxi me l'hanno ammazzato, Cossiga me l'hanno ammazzato. No, quello è morto. L'unica volta che poi sono andato a votare, finalmente ho votato la cicciolina e quindi sono rimasto contento. Beh, diciamo che allora io non voto più. Cioè da quando ha votato cicciolina lei non vota più? Dall'87. Ma non è vero, ma sì. È vero, verissimo. Vabbè, allora Adriano? Allora, volevo dire, ma riguardo agli scontri a Roma, ma cosa aspettano i poliziotti ad essere finalmente armati? Basta mettere i cecchini sopra i tetti. Sì. Se arriva uno con il casco, gli sparano come si sparano con gli elefanti. Gli dà il sonnifero, poi vanno lì, lo prendono e lo portano dentro. È talmente semplice, fai presto, indolore. Cioè, non, secondo lei cosa bisognerebbe fare? Sparare dall'alto? Sparare dall'alto, metti sopra i tetti, visto che loro vanno nei centri di città per nascondersi dietro i vicoli, sì, o sì. Nascondersi dietro a ragazze, capito? Allora, sì? Si mettono sopra i tetti con i bei fucili, come arriva uno con il casco o con il viso coperto, boom, un colpetto, lui sviene, arriva lì uno, lo prende, lo porta dentro. Parenzo, dimmi. No, volevo sapere il senso del signore che propone di sparare dai tetti. Ma sparare che cosa? No, i proiettili vero? No, come gli elefanti, sonnifero. Così dormono e vengono portati dentro. Dopo quattro volte che lo fanno, loro non ci vanno più. Beh, non è una cattiva idea però, eh? Sì, no, certo. Volevo capire questo. Da quanto tempo sta in questa struttura protetta lei? Io sono quasi 15 anni, infatti dovrebbe arrivare anche Berlusconi a trovarmi. No, 15 anni che è in una struttura protetta, benissimo, no, questo spiega prima. Ah, no. Cioè, lei guarda che vorrebbe andare nella struttura lì di Cesano Boscone, come si può fare per poter entrare? Guarda, Adriano, Parenzo non è che propone una follia, perché lui dice questi violenti maledetti che si coprono col casco, uno dovrebbe colpirli dall'alto, abbatterli. Ma che siamo in una guerra? Ma no, abbatterli, no, ucciderli. Non ammazzarli, ucciderli, ma neanche per credo. Lui, solamente farli addormentare. Vabbè, ma non è facile. Ma insomma, non è che l'ordine pubblico è un referendum alla zanzara su quale metodo utilizzare, però scusami, a me spaventa sta gente che chiama. Ho capito, ma siccome da anni ci domandiamo come eliminare questi qua che vanno coi caschi alle manifestazioni e nessuno fa nulla, qualche provvedimento bisognerà prendere, oppure dobbiamo ancora accettare come... dai. Dottor Cuciani, un po' come gli ultra allo stadio. Ma perché dobbiamo fare la guerra agli ultra allo stadio, la polizia? No, tutti nella stessa curva, all'ingresso, come entrano. C'è chi prende la massa, chi prende il manganello, chi prende il pugno di ferro, entrano dentro i tifosi della squadra A, i tifosi della squadra B nella stessa curva. Sì. Una volta che ci sono fatti fuori tutti, lo stadio diventa vivibile. Questa è una vecchia teoria, si ammazzino tra di loro, così risolviamo la questione. Vabbè. Appunto, solo che loro non lo farebbero mai, perché loro non fanno a botte tra i tifosi, loro aspettano che arrivi la polizia, perché il loro conto, il loro oppure fanno, credo, oppure, è quello di andare contro la polizia. Sì, oppure fanno 10 contro 1. Grazie, Vito da Trani. Vito da Trani. Buonasera, Cruciani. Vai. Senti, tu, David, me lo devi trattare bene, lo devi mettere in naftalina. Perché? Perché altrimenti le stronzate come fa a dirle? Per quanto riguarda, io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima. Io propongo che per i manifestanti, per poter partecipare a una manifestazione, devono indossare una maglietta con la carta d'identità stampata su. E solo allora possono partecipare. Altro che i numeri identificativi ai poliziotti. Io voglio identificare tutti i manifestanti che distruggono la città e che mi costringono a pagare le tasse per pagare i loro danni e per pagare poi i magistrati che devono andare a giudicare i poveri poliziotti. Io sono dalla parte dei poliziotti sempre e comunque, e mi sono rotto i coglioni di questa situazione. Scusa, è quello che passa col piede sopra, che ne pensi? Quello che passa col piede sopra, io posso capirlo fino a un certo punto, certo non deve sbagliare, cioè la polizia deve avere un contegno, però a un certo punto i manifestanti passano continuamente, lo Stato passa continuamente con i piedi sopra ai poliziotti. E forse è arrivato il momento che i poliziotti possano passare un attimo contro con i piedi sui manifestanti, perché non se ne può davvero più. Non si possono vedere scene di poliziotti malmenati da manifestanti e nessuno dice niente. E poi se un poliziotto, che non dovrebbe farlo, ma io provocatoriamente dico che fa bene a farlo, perché non è possibile che il poliziotto che ci deve tutelare, che deve tutelare la nostra incolumità, che deve tutelare lo Stato, deve essere maltrattato in questo modo con uno stipendio da fame. Non Vabbè. È più possibile. Vito, ciao. Sopportare di notte le zanzare. Vado a stare svegli per amare. Vado a Igor da Roma, Igor. Ciao Giuseppe. Ciao, dimmi. No, senti, allora, all'infuori dei poliziotti, che io sono per i numeri identificativi, è normale. Picchi uno che non c'entra niente, è ovvio che devi pagare, o no? Dimmi se sbaglio. Sì, ma dipende, amico mio, ma le cariche sono le cariche, dai, su, le cariche coi manganelli sono le cariche coi manganelli. Ah, dai, vabbè. Vabbè, certo, se ti accanisci per terra con qualcuno, boom, boom, esatto, boom. Esatto, bravissimo, bravissimo. Un attimo solo, fermo, fermo. Vediamo se risponde, va. Sì. Poi ti dico, non risponde. Pronto? Sì, avete fatto il numero giusto, ma al momento sbagliato. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Vabbè. Verrete richiamati. Lasceremo un messaggio dopo. Igor, allora? Un grandissimo, segretario di voi, un grandissimo segretario. No, io volevo parlare col bambotto. No, però scusi, come sta parlando lei, col via voce, come sta parlando? Sì, aspetta. Amico mio, dai, su. Sì, c'ha ragione, dai, c'ha ragione. Allora, dicevo, il bamboccio qua che vota PD, che fa il leccapiedi di Renzi, del PD, di tutti il questi bamboccio buffoni. Il bamboccio vuol dire suo fratello. Sì, va bene. Di questi buffoni che ci hanno fino adesso affossato, perché ci hanno affossato. Vabbè, allora? No, volevo dire, come si può votare PD? Me lo devi spiegare. Vabbè, vedi, quello che c'entra, Igor, partito? Dai, su. No, c'entra e come? Come fai a dire che c'entra? Scusa, per quale motivo siamo arrivati in questa situazione? Ah, non ho capito, allora il 30% degli italiani che vota, il 30% degli italiani che voterà PD sono tutti dei coglioni, degli imbecilli? Ma scusami, ragiona. No, ma ragiono cosa? No, ascoltami, se siamo arrivati in questa situazione, un colpevole ci deve essere. Ma allora io posso capire che il PD lo votavi 3 anni fa, 4 anni fa. Vabbè. Posso capire che Berlusconi lo votavi 5 anni fa. E adesso allora cosa bisogna votare, secondo te? Professore, secondo te cosa bisogna... Professore, chi vuoi votare? Se non c'è un'alternativa valida, ci sarà qualcuno di nuovo che è entrato in Parlamento, dagli una possibilità. Ho poi capito. Se falliscono dirai, no, va bene, hanno fallito come gli altri, sono ladri come gli altri. Ah, i 5 Stelle. Beh, ma è normale. No, io voglio sentire Parenzo che dice un sacco di cazzate su queste cose, che non sono collaborativi, che non fanno nessuna legge, tutte cazzate, tutta propaganda. Giachetti del PD e lo stesso Richetti del PD in trasmissione televisiva in diretta ha detto che nelle commissioni i deputati 5 Stelle collaborano e come? Senti, che alcuni dei parlamentari 5 Stelle sicuramente sono bravissime persone, collaborano, lavorano nella commissione, si fanno il culo, tutto vero. Quello che mi sta profondamente sulle palle è proprio la filosofia di fondo di questi giacobini, la violenza per cui non si possono criticare. Ma quale violenza? Ma la violenza qual è? La violenza la sai qual è? La violenza è la gente che si ammazza perché non arriva a fine mese. La violenza ecco è io che devo pagare le tasse per pagare il gelato a bottiglione perché si lamentava che alla buvetta non c'era il gelato. Ecco guarda qual è la violenza, non la violenza verbale. Guarda che perché un paese è governato dai 5 Stelle ci porterebbe al disastro dal mio addirittura. Ma dagli la possibilità, scusa, invece al adesso siamo fuori di vero? Adesso siamo tutti bene. Stazioni di servizio Costantin, carburante a prezzi bassi ad ogni ora. La Zanzara. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Roma fuori. Senza dubbi. Quando vedi un negro che cammina per strada. Bada. Nel dubbio tu inseguilo. Guarda avanti. Perché ti ha rubato il portafoglio. Guarda oltre. Lui non sta andando a lavorare. Ma sta sicuramente rubando qualche cosa. Vai vedere. E il padano accorto e veloce. Lo ha subito sgamato. Torna nel Congo, caro negro di color cioccolata. La Padania è bianca e cristiana, e mai musulmana. Noi ci abbiamo il Dio Po. Abbiamo le corna sulla testa. senza dubbi neri, perché siamo i nuovi vichinghi. David? Sì? David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? No, amico mio, quelli con le corna in testa, amico mio. Scusa, ma l'ascoltatore dell'altro giorno, quello che faceva... Ma sì, è il conduttore? È il conduttore? Dov'è? Che ne so, è sparito. Ma è il conduttore? Ma è il conduttore? Quello fa impazzire. Sentiamo? Fai sentire quanto è forte la tua voce. Dopo, dopo. Ma scusa, non possiamo richiamarlo al telefono? Beh sì, se non sarebbe male. Allora, eh? io devo dire una cosa. Scusi? Sì? Ma scusi, è il conduttore? Cacciotto in più. Cazzo è, scusi. Il potere falso. Allora, devo dire una cosa, che... Sì. Nella giornata in cui liberano sì, molti indipendentisti, per fortuna, e sì, si scoprono le carte di questa inchiesta buffonesca. Sono sui separatisti veneti, buffonesca, perché se tu hai le prove, anzi se tu incarceri qualcuno per insurrezione devi avere le prove certe. No, ma soprattutto però la cosa grave è bene che abbiano liberato questi due, ma è ancora i domiciliari, quello che si è ricomprato il tanco. Sì, sì, perché l'unica accusa che rimane in piedi è quella del tanco per il momento. Ma se l'hai ricomprato per 6.000 euro! Ma dai, su, ma siamo alla follia, dai, siamo veramente alla follia. Nel giorno, noi non vogliamo però dimenticare un personaggio mitico, il signor Bortotto. Il signor Bortotto, come dimenticarlo? Che siamo in una condizione di belligeranza, purtroppo, con l'Italia. Non da parte nostra, ovviamente, perché gli atti che fanno sono atti di aggressione e di guerra contemplati da questo, dal protocollo di Ginevra, contro il popolo veneto. Come sempre, già detto e ribadito, sempre pronto a morire per la patria. È la mia patria, è la Repubblica Veneta e non è l'Italia, sia chiaro. Non permettere al tiranno di accecarti. Mi faccia il piacere, non mi faccia vomitare, per cortesia. Il tricolore, io rispetto tutte le bandiere, ma la mia bandiera è la bandiera del popolo veneto, non è il tricolore, ma il gonfalone di San Marco, d'accordo? Non scherziamo su queste cose qua. Quanto è bella la tua terra! Quando sarà il momento, il popolo veneto e le sue istituzioni daranno la caccia a questi criminali, per noi sono dei criminali, li assicureremo alla giustizia veneta, ok? In ogni luogo, in ogni tempo, non c'è problema, sicuramente sarà così. Libertà! No, mai avuto e non lo avrò mai il passaporto italiano. Anche se ho lavorato in questura per 22 anni, non ho mai avuto il passaporto italiano. Io, guardi, come ho già fatto in altre volte, esco con i documenti del Movimento di Liberazione Nazionale. Bortotto. Siamo qui con Piero da Bologna, eccoci. Scagli le pietre. No, non scaglia un cazzo. Gino da Salerno. Ciao. Dimmi. Buonasera. Senta, io volevo chiedere una cosa, mi chiedo com'è possibile che lei, per esempio, sì, reputi, e io sono d'accordo, un reato scagliare delle pietre contro polizia, contro negozi, eccetera, sì, ma poi dica che è una cazzata che qualcuno, per esempio, su Facebook scriva che la Kieng è praticamente la sorella si è messa di uno scimpanzé. Sì. La trovo una incongruenza logica. Ma quale incongruenza? Ma lei è pazzo totale, cioè, scusi, secondo lei tirare una pietra contro una vetrina o tirare una bomba carta addosso a un poliziotto è la stessa cosa che mettere su Facebook la fotografia della Kieng e la fotografia di una scimmia? Ma lei è malato? No, è sottoscriverci. Ma è uguale. Sono sorelle siamese separate alla nascita. Vabbè, ma quella è una cosa, è una stupidaggine, ma non è no, ma infatti ma non è uguale. Non è proprio uguale. E infatti non è uguale. Anzi, secondo me è molto più grave la seconda. Vabbè, insomma, lei è fuori di testa totalmente. Io sono fuori di testa. Ma totalmente, totalmente fuori di testa. Va guardi, bene, totalmente. Secondo me lei non va per una logica consecutiva. Ma quale logica? Ma uno tira una bomba carta, per lei è uguale, ma è impazzita. Le faccio notare come le pietre non sono soltanto quelle che si tirano, ma anche le parole a volte sono sì, pietre. D'accordo, ma se uno mette su Facebook una foto come quella della Kieng e insieme accanto quella di una scimmia dicendo separati alla nascita con la scritta, è semplicemente un cretino. Questo qua è un cretino. Sono d'accordo, ma anche i cretini quando fanno delle cose che sono punibili legalmente come cose di tipo ma sì, ma uno si può inventare punibili, tutti i reati, ma la magistratura non può perdere tempo in queste cose. Ma una diversa qualità dei reati? Ma se tiro una pietra su una vetrina devo essere incriminato, se invece sono razzista no. Sì, ho capito. Non la capisco, sinceramente. Gino, sono due cose completamente diverse. Mi dispiace che lei non capisca la differenza tra una Molotov tra una Molotov lanciata contro la polizia e una scritta su Facebook. Se lei non vede la differenza, non è che incitato al linciaggio della Chienghe, non hai come una piazza. Non hai incitato al linciaggio della Chienghe. La sentenza dei tribunali, almeno sì, chi butta le pietre incita su social network, che sembra mai una piazza virtuale, avendo cosa una c'entra, grandissima ma dipende oggi, cosa scrivi, non ha detto di ammazzare la Chienghe quello, ragazzi. Oggi è molto peggio scrivere quelle infamità su internet piuttosto che scrivere su un muro. Vabbè, ma prendetela come volete. Vabbè, dite come vi pare, non mi interessa. Ma no, dite quello che vi pare. La frase ingiuriosa scritta su un muro con lo spray. Senti, se uno paragona la Chienghe a una scimmia e scrive separati alla nascita, è un cretino, ma non è un violento, capito? E il conduttore? Sì. Oh, abbiamo con noi una candidata in Sicilia, nelle isole, di Forza Italia. Caro Parenzo, stiamo cominciando a spulciare le liste elettorali. Una persona che viene criticata, secondo me, in maniera anche assurda, perché ha partecipato qualche volta a Uomini e Donne, non in qualità di tronista, però. Signora Cittino, Ilenia Cittino, buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Bene, bene. Quanti anni ha lei innanzitutto? 27 mi sembra, no? 27, i giornalisti me l'hanno dati, c'è una forchetta fra i 26 e i 28, quindi facciamo media 27. Lei che ha fatto a Uomini e Donne? Perché uno dice da Uomini e Donne alla candidatura alle elezioni europee, in realtà poi lei si è laureata, è andata all'estero, ha fatto tante cose, eccetera. Quante lingue sa? Dicono tre, ma è vero o no? Pure una buffonata. No, io inglese e francese li so benissimo, spagnolo lo sto imparando piano piano. Guardi che facciamo il test, inglese e francese. Allora non sa tre lingue, cominciamo a ridimensionare. Due lingue. No, c'è anche il siciliano, eh. Vabbè, ho capito. Allora, due lingue benissimo, che vuol dire? Perché uno dice sempre benissimo. Mi parli fluentemente in francese, vediamo se siamo capaci un po'. Beh, allora, qu'est-ce que vous voulez savoir? On peut parler de n'importe quoi, on va parler du Parlement européen? C'est pas mal ces français là, hein, c'est pas mal. D'accord, merci, parce que après pas mal, français. En France, vous voyez que quand même on va. Beh, non è male, Parenzo, tu come dire, brancoli nel buio sul francese, per cui. No, vabbè, io comunque lo intuisco, lo capisco, sono abbastanza. Ma mademoiselle Citino, et se trouve vous le Parlement européen, se trouve vous? Le siège du Parlement européen, il est où? Où est-ce que vous préférez, à Luxembourg, à Strasbourg, à Bruxelles? Ah, il y a les trois sièges, hein, les trois sièges. Oui. Vous savez qu'il y a les trois. Il y en a trois, capito? Ma in francese malheureusement, oui, che significa purtroppo ci sono tre sedi del Parlamento europeo. Esatto. Sì. Io però sono afferrato solo sul francese, l'inglese un po' meno. Però vediamo un po' il suo inglese, sempre sulle stesse cose della sede del Parlamento europeo. I should talk about what? English? Okay, yeah, like English. English. Okay, perfect. The European Parliament is located either in Strasbourg, in Luxembourg or in Brussels. I think that it should be just one place because it would be more economic and more efficient. But French people like a lot. Ragazzi, questa qua. Ma è top. Ragazzi, qui siamo, cioè qui non c'è arrivato. Adesso io lo dico. Un solo. Vogliamo confrontare l'inglese la signora Cittino. La Cittino che riceve molte prese per il culo. La Cittino, guarda. Sì, non mi toccate la Cittino. Perché? Chi mi tocca la Cittino. Guarda, è una delle più belle cose che ha fatto Berlusconi dal 94, perché ha una persona per bene. Addirittura. Parla bene le lingue. Non ha ricevuto le chiavi per andare a fare jogging a Piazza Armerina, no, ad esempio? Ancora no. No. Io mi sono limitata a fare jogging sul fiume di Strasburgo. Ma già, perché già c'è stata, perché già sta a Strasburgo, non ho capito. Già è andata qualche volta così. Ho vissuto quasi due anni all'estero, sono tornato da qualche giorno. Allora, non è indagata, dicevi tu, poi? Il fatto che abbia partecipato a Uomini e Donne per me è un fatto positivo, perché voglio dire, porta al Parlamento, rispetto a voi lì c'erano cantanti. Vabbè, ma ha fatto qualche puntata su, adesso si vergogna pure di questa cosa, questo mi sembra sbagliato, perché si vergogna di aver partecipato a Uomini e Donne, Cittino? Ah, no, ma non è che mi vergogno, anzi è stata una cosa che mi ha dato la possibilità di farmi intervistare ai giornalisti, sennò sarei stata troppo impeccabile e nessuno avrebbe avuto interesse. No, ma lei dice adesso, ho letto da qualche parte, dopo Uomini e Donne ho faticato a trovare lavoro perché uno faceva su Google, com'è questa storia? Ma infatti mica ce l'ho il lavoro, eh. Che fa adesso, scusi? Adesso faccio la campagna. Basta, non solo lavoro, questo. Chi gli dai i soldi per fare sta campagna? Nessuno, infatti ho detto farò una campagna low cost su internet, con i social network, con l'aiuto dei miei amici. Ma il Berlusca ha detto che bisogna votare lei, perché lì in Sicilia è un bordello, c'è chi dice che bisogna. Non lo so, ma vabbè, insomma, non è che Silvio deve impormi da qualche parte, spero io di dimostrarmi con le mie capacità, se la gente vorrà far salire una giovane, sarà un segno di cambiamento. Vabbè, ma io voglio dire una cosa, ma è vero o no che se lei la verità non ce la dirà mai, è vero o no che la sua candidatura ha fatto ingelosire un po' la signora Pascale? Cioè, diciamola tutta questa cosa qua, perché un po' sarà vero, cioè, ma appena ha visto le foto magari avrà chiesto a Silvio, scusa, ma chi è questa qua? Cioè, un po' ingelosita, lui ha detto, no, stai sicuro, questa sa l'inglese, il francese, io non ho fatto niente, non me la sono portata a letto. Ma poi mica conta solo sapere l'inglese o il francese, attenzione. No, perché quello sia, guardi che le assicuro, adesso le faccio ascoltare una cosa del vicepresidente del Parlamento Europeo, è già un grosso passo avanti, secondo me, un grandissimo passo avanti. Sentiamo signor Pittella. Dear all, on 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels. The first ever peace declaration was signed here. No me molestemos. Allora, vogliamo dire, I think that that was an amazing declaration and everybody should agree with that. What do you think? Ho capito. I think your English is better than the Pitella's English. I think. Vabbè, allora diamo 8 all'inglese But della Citino. You know what? We are Italian, so we have to show it. Sì, è vero, infatti alla fine your abbiamo English is very very good. The Chinese English is disgusting. It's like a violence. Ma ho capito, ma io no. It's like a violence. No. Allora, però voglio dire una cosa. Lei ha mai frequentato? Dunque, sgombriamo subito il campo da questa cosa qua. Lei è mai andata a queste scene di Arcore, eccetera, eccetera? Mai, le famose scene eleganti, cioè mai. Arcore, no. Marco Arcore, lei non conosce Arcore, eccetera. No. Parlato mai al telefono con Berlusconi? Sì, perché ha fatto la prefazione del suo libro. Dunque, al telefono con Berlusconi ci ha parlato. Al telefono, sì. Mi ha chiamato l'altro giorno per farmi gli auguri e in bocca al lupo per questa campagna elettorale. Ah, che cosa ha detto? Sei straordinaria, stupenda, ce la farai, che ha detto? No, ma ha detto in bocca al lupo, mi raccomando, forza. Ma per lei Berlusconi, lei ha fatto anche della militanza in forza, per lei Berlusconi che cos'è? Un mito, una leggenda, un uomo straordinario, un grande statista, cos'è? Un mito, una leggenda, sicuro, è una rock star. Una rock star, addirittura. E certo. Ma anche adesso che è un po' sulle copertine dei giornali come una rock star. No, a parte gli scherzi. No, che scherzi. È una persona che ha saputo coinvolgere la gente, perché non ha mai parlato politichese, ma si è messo allo stesso livello di tutti quanti. Ma per lei cos'è? Cioè, politicamente un punto di riferimento pazzesco, è stato uno dei più grandi statisti del nostro paese, che ha fatto? Senza dubbio uno statista, un innovatore, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, perché ha cambiato il modo di comunicare. Prima con la Democrazia Cristiana si votava il simbolo, invece da lui in poi i politici avevano una faccia ed erano responsabili personalmente. Ma per lei che cosa vuol dire la parola bunga bunga? Chiedetelo agli africani. Io ho fatto l'ENA e avevo un sacco di colleghi che venivano dal mondo della diplomazia africana. Per loro è una danza. È una danza, l'ENA. Sì, è stata pure all'ENA, famosa ENA. Conoscete l'ENA? Sì, come no, voglia, io l'ho frequentato, non è vero, no, non ho fatto un cazzo. No, perché mi vengono dubbi, tutti i giornalisti conoscono uomini e donne, pochi conoscono l'ENA. No, ma noi siamo così, noi andiamo alto e basso, alto e basso. Uomini e donne, lei ha fatto in assoluto non la tronista, ma la corteggiatrice. Capito. David, scusami, tu hai fatto 4 puntate della Guerra dei Mondi e l'hanno chiuso. Radio Belva, dopo una puntata l'hanno chiusa. Vabbè, che cazzo c'entra, scusa. No, aspetta, dopo 4 puntate mica ti hanno detto che sei un fallito, giusto? A me mica, perché dopo 4 puntate mi devo dire che sono tronista? No, ma infatti qui mi sta colpendo nel vivo. No, come adesso la signora Cino pensa di averci messo in difficoltà con questa cosa. Assolutamente no, perché io penso di aver fatto una cosa straordinaria, cioè una cosa fuori dal mondo. Era una foto di Gronchi Rosa. Sì, su una cosa che resta così, ma infatti noi non stiamo andando addosso. Nel firmamento dei più grandi disastri televisivi. No, ma quali disastri? Ma sei pazzo tu, Ma anche quello è un primato, Ma io poi non ho capito, lei faceva la corteggiatrice a sto Uomini e Donne o no? Che faceva? Ma non so manco se si chiama corteggiatrice. Ma non deve cancellare il passato, deve essere orgogliosa di aver partecipato a Uomini e Donne. Non deve... Deve essere orgoglioso, ho fatto qualche puntata di Uomini e Donne e chi se ne frega? Lei deve guardarsi indietro e dire anche grazie a Uomini e Donne TV Nazional Popolare, io oggi vado in Europa fiera di quello, fiera. Cioè, soprattutto deve dire, non faccio l'igienista dentale. Questo quello deve... no, di sicuro. Ma poi voglio dire, anche Renzi è partito dall'ora della fortuna, giusto? Dalla ruota della fortuna, sì, è vero. È partito dalla ruota della fortuna. Comunque non fa l'igienista dentale, non c'è dubbio. Cioè, non è passata, no, da igienista dentale a consigliere regionale in Lombardia, diciamola. No, sono più sul lato Secchioni io. Più Secchione della Minetti, insomma, no? Beh, che sì. Poi chiedono sempre della Minetti. Vabbè, ma poi si sono fissati con questo paragone. Insomma. Vabbè, ma comunque ragazzi, lei sta al gioco, per cui va benissimo. Sì, sì, ma sì, io non ho capito una cosa, ma quando ha incontrato Berlusconi le prime volte, che cos'è che l'ha colpita di Silvio? Berlusconi è stato colpito da altre cose e lo sappiamo, lei certamente non è brutta, anche se poi le foto che ho davanti sono foto... Come si sente lei? Bella? Io mi sento bella, una bella ragazza. Beh, ma ce ne sono di molte più belle, di più prosperose, di più... Insomma, sì? Non sono sicuramente... Non è molto prosperosa lei? No, non sono come queste qua che vanno in TV, sono una ragazza col viso semplice. Cioè non è una velina, insomma? No. Non lo potrebbe fare la velina, non lo potrebbe fare. No, non mi accetterebbero, mi rifiuterebbero subito. Ma è fidanzata lei? Ma lì andiamo sul personale. Vabbè, fidanzata, non è che sto dicendo altre cose, fidanzata, anzi, ci siamo andati leggeri, noi siamo sempre un po' più... Ah sì? Sì, di solito che siamo. Che tipo di domande fate? Di solito, ogni tanto, quando entriamo in confidenza facciamo domande tipo... Un po' più piccanti. Quante volte lo fai, com'è il sesso... Mi dovete perdonare, perché in Francia io provavo a seguirvi, ma non ci riuscivo. Ci sono sempre le limitazioni di paese. Vabbè, ma com'è? Fidanzato o no? Questo non si può dire. Vabbè, adesso non si può dire che è il segreto di Fatima, su. Vabbè, certo, qua se no arriviamo a livelli di vita privata. No, il fidanzamento, semplicemente, esiste un signor Citino? In questo un momento? Signor Citino, certo che esisto. Quello è suo padre, vabbè, d'accordo. Esatto. Però il fatto che non ci vuole dire, è vero che lei è stata raccomandata dal signor Giacomoni? Ma queste cose le ho apprese oggi dai cioè giornali. Lei non conosce nemmeno Sestino Giacomoni, con gli uomini più vicini a Berlusconi? Niente. Certo che lo conosco lui, conosco Maria Rosaria Rossi. Ma è vero che insomma c'è stata lo zampino, signor Giacomoni, la sua candidatura, sì o no? Mi dica la verità, ma non c'è... No, assolutamente, assolutamente non c'è no. Da nascondere. Più che altro io loro due sono state in contatto perché hanno fatto la prefazione, mi hanno aiutato ad ottenere la prefazione del libro da Berlusconi. Sì. Vabbè, l'abbraccio, a presto. Grazie, a presto. Allora, dove andiamo qua? Un'altra telefonata voglio, andiamo assolutamente. A casa, sì, a casa andiamo, un attimo, non rompere i coglioni. Gennaro da Milano. Andiamo a mangiare qualcosa. Gennaro, sì. Questo non c'ha voglia di fare un cazzo. Gennaro. Ma chi, Gennaro? No, tu, Gennaro, dimmi. E che vuoi fare a vedere tutto? Dai, dimmi. Sì, salve, buonasera. Senta, guarda, io sono nauseato. Da che cosa? Da che cosa sei nauseato? Da questa campagna pro polizia, pro i picchiatori della polizia. Ma non c'è nessuna campagna pro picchiatori, Gennaro. Picchiatori, ma quando come? Mai? Io sono pro per se fosse per me il numero identificativo sarebbe la prima cosa da fare. Nessuna campagna con i picchiatori, è una campagna contro i veri violenti, è diverso. Una campagna contro i veri violenti che non sono i poliziotti, sono quelli che lanciano le molotov. Ma ci sentiamo lunedì 18:30. Siete noiosi, tu e Parenzo, ma non solo poi, siete anche scarsi. Come giornalisti siete molto scarsi, non mi piacete per niente. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono tempi duri, Radio 24. La passione si sente.